Io non ti mando un semplice messaggio, io ti seguo dentro ai fili della luce del telefono, tra i campi dove passa la corrente, tra queste mezze torri Eiffel dove le rondini si appoggiano senza prendere la scossa. E siamo in ballo su una giostra e non puoi scendere. Io ho poco sonno e faccio sogni, ne ho da vendere. Ehi, dammi uno schiaffo ed è già domani. Dammi un abbraccio tra i pesce cani. Ti porto in moto un fiore di loto. Io non so buono, manca fa una foto. Ma mi ricordo bene, e prima o poi anche tu. Tutto il mondo cala giù, vienimi a prendere. Tutto il mondo cala giù, prima che crolli tutto. Tutto il mondo cala, tieniti stretta a me, se anche il cuore si sgretta. Tutto il mondo cala giù, vienimi a prendere. Tutto il mondo cala giù, prima che crolli tutto. Tutto il mondo cala, tieniti stretta a me, se anche il cuore si sgretta. Grabbo una coca senza fa uno sforzo. Fly me to the moon, di sto rimorso, no, non lascio un morso. Questi sono solo sogni tuoi. Neanche mi batte la pioggia più addosso. E tu hai le braccia lunghe come Blitzcrank. Mi prendi e boom boom mi mandi in fissa. Sei da scolpire a mani nude, da mai finire, come le statue masterpiece, ah. E sono sempre io che dico cose. La testa trolla la gente di più. Ma solo per stanotte, sotto la luna siamo tutti tutto blu. Il mondo cala giù, vienimi a prendere. Tutto il mondo cala giù, prima che crolli tutto. Tutto il mondo cala, tieniti stretta a me, se anche il cuore si sgretta. Tutto il mondo cala giù, vienimi a prendere. Tutto il mondo cala giù, prima che crolli tutto. Tutto il mondo cala, tieniti stretta a me, se anche il cuore si sgretta. Tutto il mondo cala giù, vienimi a prendere. Prima che crolli tutto. Tieniti stretta a me, se anche il cuore si sgretola. Relief, do you need a relief? Do you need a release? Do you wanna be? Ok. Mi si è rotto lo schermo, son finite le paglie, c'è la crisi al governo. Oh madonna che palle, yeah, che palle, che palle, yeah, che palle, che palle, yeah. Che palle sti quattro influencer, con i follower tutti comprati. Sti rapper con i tatu in faccia, manco ringraziano maleducati. Che palle la metro che non arriva, che palle le tasse, che palle l'IVA. Tu che dici, eri meglio prima, non si incolla più questa cartina. Che palle la dieta, mangio McDonald's, scusami bro non seguo la moda. C'hai 30 anni, smetti con la droga, che palle il mio slogan. Mi si è rotto lo schermo, son finite le paglie, c'è la crisi al governo. Oh madonna che palle, yeah, che palle, che palle, yeah, che palle, che palle, yeah. Vorrei cantare ma sono un po' stonato. Che palle che su Insta c'è il profilo privato. Che palle la tipa che pressa, quella che fa la depressa, quella con l'amica più cessa. Che palle se c'ho il mal di testa. La gente diceva che mi copiavi, forse ci aveva ragione. Ciao bello ti mando un bacione. Chiusa la questione. Mi si è rotto lo schermo, son finite le paglie, c'è la crisi al governo. Oh madonna che palle, yeah. Che palle, che palle, yeah, che palle, che palle, yeah. Che palle che non mi chiami mai, che palle il traffico di questa città, che palle i social, che palle la musica, dove non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che funziona. Che palle sti soldi, ma solo perché ne voglio di più, che palle queste fake views, queste fake news, eppure questo disco, che palle. Mustafa.net. Badr Hari, Badr Hari, Badr Hari, Badr Hari, Badr Hari, Badr Hari, Badr Hari, ik ben Badr Hari. Ik sloop hem, kun heli, ik sloop je, kun heli, ik sloop hem, kun heli, ik sloop je, kun heli, ik sloop hem, kun heli, ik sloop je, kun heli, ik sloop hem, kun heli, ik sloop je, kun heli. Ben Badr Hari, hier op die jari. Ik word gehati, maar met jullie ben ik klaar. Van Amsterdam tot Tokio, heavyweight champion ben ik sowieso. Bad boy, noem me bad boy, the golden boy, maar noem me bad boy. M'n klappie dadelijk, m'n nakkie dadelijk, m'n trappie dadelijk, want ik ben gevaarlijk. Gaat daar filmataar, gaat daar filmataar. Gaat daar filmataar, gaat daar filmataar, gaat daar filmataar, gaat daar filmataar, gaat daar filmataar, gaat daar filmataar. Badr Hari, Badr Hari, Badr Hari, Badr Hari, Badr Hari, Badr Hari, Badr Hari. Ik ben Badr Hari. Ik sloop hem, kun heli, ik sloop je, kun heli, ik sloop hem, kun heli, ik sloop je, kun heli. Oh, verità. Cerco le chiavi di casa, sono sbronza, ma voglio te, voglio te. Lei arriva col fare da diva, mi ammira, mi attira e mi schifa, ma io sono sempre la stessa, la solita stronza. Lasciamo la festa che mi gira la testa, la macchina è spenta e con noi c'è anche lei. Sì, c'è ancora lei. Chiedo di non chiedere, io chiedo di non chiedere, c'ho più voglia di te, io invece ho più voglia di lei. Chiedo di non chiedere, io chiedo di non chiedere, c'ho più voglia di te. Dai de tacco, dai de punta, quanto è buona la sola assunta, e noi gli dimo e noi gli famo, c'hai messo l'acqua e non te pagamo. Così iniziamo la festa, è un giro di giostra, le sue labbra sul mio seno, e perdo il controllo dei miei sensi. Le mani intrecciate, le facce sudate, il vestito scucito dal mio desiderio, mi bacia e mi schiva, ed io sono sempre la solita stronza. Ti cerco e la cerco, ma hai il fiato corto, non sai cosa fare, lasciati andare, stanotte non pensare mai. Chiedo di non chiedere, io chiedo di... Dagli de tacco, dagli de punta, quanto è buona la sola assunta, e noi gli dimo e noi gli famo, ci hai messo l'acqua e non ti pagamo, giusto Walter? C'ha la fila sta sola assunta de fuori, eh? La sola assunta, quanta ne sa? Voglia di te o di fare l'amore con lei. Tant que tu veux, mais lâche-moi dans ce que tu veux. J'ai compris que tu as envie, me dis pas que tu pars, me dis pas que t'as pas envie, me dis pas que t'as marié. Que ça tend alors pour le laisser, que la lumière maintenant elle est baissée. Et moi je suis là, je suis toute moulée, parce que je suis à toi bébé. Quiero di non chiedere, io quiero di non chiedere, c'ho più voglia di te, oh, invece ho più voglia di lei. Quiero di non chiedere, io chiedo di non chiedere, se ho più voglia di te o di fare l'amore con lei. E lasciami dans ce que tu veux, avec le temps et le temps que tu peux, parce que je suis à toi bébé.

respect is all down. Runtime Radio presenta Ottimisti genericamente mortificati. Runtime Radio, la tristezza mortificata. Benvenuti a tutti qui sulla nostra meravigliosa trasmissione Runtime Radio. Fuori dal gatto. Minimo. Scusate, stavamo baciando i citofoni, memori delle vecchie puntate. Aspetta l'illuminazione, bacioni. Arriva il gatto. Cioè, lo fa per il disagio ai gattini, praticamente. Capito? Cioè, è tutto un cerchio. Torna tutto. Cioè, gatti, bacetti, bacioni. Arriva il gatto. Cioè, mamma mia, questo sta avanti. E i gatti chi glieli vende? Questo Soros? Sta, non so chi lo vende, ma questo sta avanti. Sta un milione di passi avanti a noi. Ma forse per questo. 49 milioni di passi avanti. Il presidente del mondo. È incredibile. Il capo del mondo. Capo è più modesto perché è presidente istituzionale. Capitano del mondo. Mamma mia, ragazzi, che schifo. Io non so di che cosa state parlando. Scusa, la locandina della puntata di oggi è? Boh, è uno che dà i bacetti. È uno a caso. Tra l'altro il titolo della puntata oggi doveva essere Si Salvini chi può, solo che tu hai messo solo genericamente OGM ore 21 live. Ma in realtà la puntata di oggi, lo dico al milione di ascoltatori che al momento c'è in chat, che è Peppe Rizzard, che salutiamo, in realtà si intitola Si Salvini chi può. Sì, no, in realtà io avevo pensato di chiamarla così, però poi non so per quale ragione la tua cover mi ha destabilizzato. Ma un po' anche a me, mi ha tolto il... Io non ho cenato perché mi si è chiuso lo stomaco, anche se l'ho fatta io, guarda. Allora pensavo che la puntata si chiamasse Bacio. Nel frattempo stanno cercando di invadere la Kamchatka da... Sì, ma noi ci abbiamo i gatti. Dal fronte ovest, praticamente. No, i gatti la guardia. È tutto a posto, è Mercedes che sta... Allora, io capisco che... Oh, a Mercedes, dai un po'... Niente, momento di panico. No, vabbè, tra l'altro oggi è una puntata quasi di bestemmie, perché oggi parleremo con tutto il livore, la rabbia e l'enfasi del caso, di quello di cui non abbiamo parlato settimana scorsa, perché abbiamo fatto lo speciale su Evangelion, no? Quindi questa settimana torniamo ad occuparci attivamente di politica. No, non ci dico cazzo. Però prima di parlare di politica, un argomento solo, Pizzi, ma non lo dico, comincio con la F ma non lo dico. No, allora prima la di foga la foga, esatto. Prima la foga per la politica. Allora, come fate parlare, porco demonio? Prima di parlare di politica, tutto quello che è, così parlate voi mentre io finisco di settare qui le cose, che sto facendo un casino. In realtà dobbiamo dare un annuncio. L'annuncio è importante, giubilo, lunedì iniziamo una nuova esperienza che non abbiamo mai fatto. Ma chi ve lo fa fare? Che non è sessuale tra uomini, diciamolo subito, perché... Però torna un grande personaggio che già sapete perché l'avete potuto ascoltare, insomma, nel recentissimo passato. Nel recentissimo episodio torna perché è grande richiesta. Lui mancava al pubblico, il pubblico mancava lui, e allora ritorna. Senza ricalcitranza, però. Tutti che si mancavano. E quindi niente, c'è questa nuova trasmissione che si intitolerà Pizzi domanda, Casciola risponde. Bello. Che bello il titolo l'ha inventato lui, bellissimo. E dove parteciperemo un po' tutti, insomma. No, non è vero. E sulla prima puntata è sul Giappone. esatto, faremo domande. Il Cipangu! Faremo domande sul Giappone e il Khashoggi risponderà. Insomma, vabbè, questo è importante, ci tenevo a dirvelo e spero che questo vi riempia il cuore di illuminazione. Quindi fate anche voi delle domande, cioè preparatevi delle domande, sul Giappone. Ma io ce l'ho già tante domande. Esatto. Io ne ho una sola oggi, però è predominante perché è proprio. Ma che ci stiamo a fare qui stasera? Buonasera, c'è la padrona di casa. Dicevo, che ci stiamo a fare qua noi stasera? Veramente stiamo a fare compagnia a Rizzard, mi pare di capire. Sì, ma facciamo partire le sigle. No, scusa. Infatti, ma chi può fa? Perché fa caldo e non sappiamo cosa fare. Facciamo ancora in tempo a andarci a bere una birra. Infatti, no, oramai no. 20 minuti. Oramai sì. Oramai non è giusto, però diciamo che possiamo mandarla anche un po' in ferie. Ma sì, se tanto se c'è Casciola, perché noi non ci possiamo riposare un po'. Anzi, facciamo una cosa, tu gli dai le chiavi di casa, noi andiamo al pub, quando viene Casciola fa tutto lui. Mo mi sembra un po' esagerato. Vabbè, che cavolo, un po' di turnover, un po' di disponibilità al sacrificio. Scusa. No, vabbè, quindi insomma. E ti sto continuando a fare casini, No, infatti sentiamo che spippioli con i pippiolini e si spippiola tutto un cuffio fuori dalla cuffia, a casa, fuori da casa. Guardi, ti faccio una proposta. No. Ti faccio un'offerta che non puoi rifiutare. No. Ti do 1000 euro se ti lanci giù per il burrone con la tua macchina. Guarda, ci penso. Pensaci bene, perché c'è chi l'ha fatto. No, non va bene. Però, se mi dai 1000 euro per buttarmi con uno scooter dentro un fiume, no, forse. Era il lungomare di Mergellina, forse, te lo dico io. No, sì, forse il mare è meglio. No, ma è salato così, capito? Risale a galla. Mergellina, sì. Forse quello lo faccio. Perché dovete sapere, amici di OGM, che se me ne dai 2000, sicuro. Ho capito, sono modesto. No, sapete che insomma, uno dei nostri miti, uno dei nostri eroi, che è Mario Balotelli, ogni tanto fa parlare di sé. Poi lui ha questa consuetudine che quando deve fare le cose goliardiche, diciamo così, con eufemismo, va sempre a Napoli, perché c'ha tutto questo cerchio di amici altolocati dell'Alto Vomero, no? Che lo assecondano in tutte queste cose. In questo caso, quello che ha combinato sempre rigorosamente con qualcuno che faceva la direttina Facebook o quello che sia, ha detto ad un amico. Posso aprire una parentesi? Cioè, il dogma dovrebbe essere mai lasciare prove. Esatto, ma ormai ma questa cosa ormai è diventata proprio sdoganata. Esatto. L'idiozia è sdoganata. Sì, esatto. Da un certo punto di vista va anche bene che sia sdoganata. Sono i pericoli della democrazia. Internet è uno strumento pericoloso perché non molti sono in grado di gestirlo. Balotelli ce lo dimostra perché dice a questo suo amico: ti do 2000 euro se ti butti a mare col motorino dalla riva, appunto dal molo di Mergellina a Napoli. Questo ha risposto: ma guarda, io prendo il reddito di cittadinanza. Ha detto: il motorino ne vale 600, vum, si è buttato. Ora non si è fatto male nessuno, però è arrivata la denuncia, perché giustamente istigazione al reato, non so se è provocato il reato? Il reato, cioè buttarsi dal molo col motorino, che reato è? Che potrebbe essere? Penso più di uno, sai, perché è un reato ambientale, è un reato contro il codice della strada, credo che ce ne siano vari, insomma. Fatto sta che adesso si sono beccati l'incendio contro il motorino, però insomma quello mi pare l'ultimo problema. Fatto sta che si sono beccati tutti una bella denuncia. Poi probabilmente Balotelli pagherà per tutti, tanto se lo può permettere, tutti contenti e tutti amici come prima. Porco su, porco giù, dai, forza. Bergamogna, pota. Ma dove se lo può permettere? Che poi dall'altro, proprio l'altro giorno, mi è capitato su, mi è capitato, io perché poi non l'avevo mai vista qua cosa, mi è capitato sto video, tra l'altro in inglese, no? Dice, Balotelli prova a fare il trick davanti alla porta e fallisce. Ma la cosa bella non era tanto il fatto che c'è la stazione dei contropiede del Manchester City, dove a un certo punto Balotelli si trovava tu per tu col portiere e poteva tranquillamente fargli il pallonetto, farla passa sotto, farla che cosa fa? Prova a fare il trick che si gira per colpire di tacco. La rabbona praticamente. E la manda fuori. Peggio. La manda fuori. Si è girato su se stesso, che fa? Sì, ha fatto tipo si è girato su se stesso per colpirla di tacco praticamente. E l'ha mandata fuori a quel punto. Cioè era l'unica cosa veramente stupida da fare, lui l'ha scelta nel campionario. In quel contesto c'era il compagno vicino del compagno di squadra che cuceva la bestemmia come un assassino. Ma la cosa è stata bellissima. Mancini che si è alzato immediatamente dalla panchina e ha fatto questo mocacci. Cioè proprio così come avrebbe fatto il nostro buon Alberto Sordi. Questo mocacci l'ha fatto uscire immediatamente e poi dopo lo ha seguito negli spogliatoi. Scusa, ma quando risale questa cosa? Perché effettivamente, mo che mi dici Mancini, Balotelli, cioè quindi Mancini, diversi anni fa. Sì, ma diversi anni fa. Ma carino, non pensavano, dice, vabbè, ma sai, Poi è un po' cambiato, no? E poi in realtà Mancini ci ha fatto capire proprio recentemente che Balotelli, se non gioca in nazionale, è colpa di Balotelli. Ma mi sembra abbastanza naturale, è un personaggio ingestibile, quindi perché c'era un complotto dietro. Mica è come Icardi, che se non gioca nell'Inter è colpa di Vandanara, insomma, voglio dire, ognuno si assume le proprie responsabilità. In generale. Sì, e beh. No, anche perché adesso è in odor di Juventus, e lì sinceramente non so quanto permetteranno alla moglie procuratrice, se dovesse poi consolidarsi questa vendita. Signori, se ne mette a qua. Si accomodi fuori dalla porta, perché si insomma si su questa sedia con cinque zampe. Esatto. Una girata aperta verso l'alto, però, per sicurezza. Sì, è un dispositivo normale. Vabbè. Evitiamo questo luogo comune. Allora, guardi, diceva la sedia a cinque zampe, bravo. Fai bene, sì, dicevi. No, cioè, è una puntata surreale questa. Molto surrenale anche. Sì, come le ghiandole. Esatto. No, tra l'altro io quest'oggi dicevo, vabbè, oggi comunque dovremo fare un pochino un recap delle cose che non abbiamo raccontato settimana scorsa, perché io mi ricordo. Poi la cronaca è stata prepotentemente catturata da questa storia di cui poi andremo a parlare, però volevo raccontare questa cosa, l'accennavo prima nella prediretta al Pizzi. Oggi, scorrendo Twitter, voi non so se lo sapete, io sono abbastanza attivo su Twitter, a un certo punto mi imbatto sul tweet di un tizio che non so, lo potremmo contestualizzare in, diciamo, in ambito elettorale tra il grillino e il leghista, visto il contenuto, che decide di fare questo tweet polemico di rabbia e di critica verso Carola Rackete, che è la capitana della Sea-Watch, che ha salvato queste anime perse in mezzo al mare e le ha portate a Lampedusa, no? Ma perché tu le porti a casa sua? No, aspetta, questo tweet è bellissimo, non diremo il nome, però ha scritto in pubblico: auguro alla brutta tedesca ariana e nazista la stessa sorte capitata a milioni di donne violentate, stuprate e massacrate dai negri africani assassini in Europa. Questo augurio se lo merita come brutta persona arrogante e prepotente pagata dal bandito Soros. Quindi intanto ha citato Soros, quindi potremmo ipotizzare che è in quota Movimento 5 Stelle. Soros c'è sempre. Però io voglio rileggere. Ma Soros è palindromo. E quindi un complotto per forza di cose. Quindi volevo insomma sottolineare, voglio rileggere il primo periodo di questo tweet, perché auguro alla brutta tedesca ariana e nazista la stessa sorte che ritorna milioni di donne diventare stuprate e massacrate che fricano in Europa. Ma come ariana è nazista? Cioè, che c'entra? Parola a caso, perché? Ariana è nazista perché è tedesca, però poi dopo, siccome ho capito, però se sei negri, però se sei ariana e sei nazista sei suprematista, quindi che cacchio vai a salvare i neri in mezzo al mare, se certo, fosse cioè superiore, quindi ti permette addirittura di salvarli per ucciderli con cavolo dopo, è normale, cioè questo, cioè allora bastava dire guarda, li uccido dopo con calma, non si sarebbe arrabbiato questo twitterino. Tra l'altro Michela, proprio ieri è successa una cosa, tipo che è andata al negozio che andava tipo al negozio di animali, l'hobbit frontali, e a un certo punto una vecchia fa, dice: ma oh, c'era un cane lì, dice: ma gli date da bere questo cane, c'ha la lingua di fuori. Signore, non si preoccupi, noi il cane lo sappiamo come gestirlo, no? Certo, avrebbe potuto pure preoccuparsi del bambino che ha chiesto l'elemosina 5 minuti prima. Dice: no, io quelli poi stuprano le donne. Perché ricordiamocelo, la vecchia è cattiva, non importa dove tu la metti, la contestualizzi, la vecchia è cattiva. No, ma io, cioè, soprattutto il peccato che non ci sono mai, perché gli avrei detto: signora, ti piacerebbe? Diciamoci la verità. In memoria dei tempi che furono. Ah, le vecchie care marocchinate. Vabbè, non le fanno più come una volta. Pazienza. Pizzi. No, io. Guidaci verso l'avvenire. Veramente, io questa sera. Allora, verso il sol dell'avvenire. Una cosa l'abbiamo capita. Che io di solito quando facciamo le trasmissioni a Katsum vengono anche bene. Però stasera non so proprio, anche perché per aggravare un po' la situazione, no? Il caldo, tutta questa cosa, oggi poi siamo stati fuori tutto il giorno. Oggi è piovuto, Pizzi, non è piovuto, ma questo piovuto, Pizzi? Poca roba, questo frescume che no, però dai, qui almeno qui è rinfrescato. Per aggravare, che ho fatto? Sono andato a mangiare la zuppa d'arcinese. E sono uscito grondante. Guarda, io credo per me sia scientifico che quando qualcuno di noi va al cinese, dopo la puntata viene male. È proprio un dato veramente statistico. Il messicano, peccato che non c'è molto il messicano. No, no, il più vicino, se c'è ancora, era Paella e Sangria, che è a Fonte Nuova, ma forse non c'è più. Però fa roba messicana. Sì, un Tex-Mex rivisitato. Pure decente. No, a me non dispiace. Vabbè, ma guardi, tu sei delicatino. Ragazzi, guardi. Sappiamo. Ragazzi, però io sono l'unico piatto che ho rimandato indietro, l'ho rimandato indietro. In vita mia l'ho rimandato indietro. Ma non era roba Tex-Mex, però. Ma e allora che cazzo? Tex-Mex, però sti cazzi. Noi dobbiamo prendere la musica di la BGM di Casavianello, di che fosse di Augusto Martelli, la dobbiamo mettere in scaletta perché si pone, si presta per tutte queste storie. Beh, insomma, Pizzi, guardi, ma avete capito che è successo oggi? No. Allora, è successo che succedono cose. Qualche tempo fa, qualche mese fa, mi pare intorno a febbraio, La Repubblica e L'Espresso pubblicarono questa inchiesta che ipotizzava che in una missione di un gruppo di esperti del settore della, in quota Lega, quindi diciamo così, dei consiglieri di Salvini, fossero partiti in direzione della Russia alla ricerca di fondi più o meno leciti, più o meno illeciti, non lo sappiamo, per la Lega da parte dei russi, che li avrebbe elargiti in cambio, diciamo, per stimolare, per finanziare il sovranismo in Europa. Questa era una, come dire, era un'inchiesta che era rimasta un pochino sul vago. La Repubblica e L'Espresso, che l'aveva pubblicata, quindi per cura di Marco da Milano, che è il direttore dell'Espresso, l'avevano pubblicata dicendo che c'erano delle registrazioni audio, solo che da lì poi, insomma, non se ne era in qualche modo saputo più nulla. La questione, come nella migliore tradizione italiana, era stata un po' messa a tacere, tant'è che, come al solito, ci sono queste piccole questioncine sui migranti che servono a distrarre da fatti ben più gravi. Fatto sta che oggi un media, se non sbaglio americano, ha tirato fuori questi audio. No, britannico. Britannico, c'hai ragione, britannico. Mi devo stringere a correggerla, mi scusi. Faccia pure. Okay. Fatto sta che, insomma, arriva questo questo papi pam pum, questo colpo di scena per cui la Lega, in qualche modo, tramite, diciamo, un escamotage legato alla vendita di gasolio dalla Russia all'Italia con uno sconto che poi veniva riassorbito, vabbè, poi meccanismi tecnici che non staremo ad approfondire, avrebbe addirittura sarebbe riuscito ad ottenere quest'anno qualcosa come, non vorrei sbagliare, lo vado a rileggere, diverse decine di milioni di finanziamenti dalla Russia. 600.000 euro l'anno, statali dei 49. Sti pezzi di me. 65 milioni di dollari. Avanzavano pure i soldi, ti rendi conto? Pure i soldi gli avanzavano, che merda. Però io ultimamente mi domandavo, ma la Lega, no? Che fino a poco tempo fa non era tutto sto... No, scusa, però volevo chiudere solo la chiosa di questo, di quello che mi fa riflettere tutto questo. No, ho detto scusa, Bisognerà fare delle indagini, tutto quanto. Bisognerà vedere sempre che non venga tutto messo a tacere, perché nel frattempo Salvini ha già tuonato: io querelo tutti. È il silenzio, come al solito, assordante dell'alleato di governo. Perché quale? Lo stuoino Di Maio, il Bibitaro. Quello che giustamente dice: basta vendere Coca-Cola nelle scuole, vendiamo le aranciate. Non capisco di chi quelle sono parlando. Le sue ci preoccupazioni. Ci sono degli alleati. L'altro vice menestrello del consiglio. Ma perché falla pure il vice quello? Pensavo che fosse un figurante, un pupazzetto che... No, ok, no, va bene. Fatto sta che, insomma, in un paese civile un governo cade su seduta stante su una notizia del genere, da noi non solo non succede, ma l'alleato del governo non prende una posizione. C'è scritto nel contratto di governo che devono farsi i cazzi loro. Vabbè, l'hanno salvato quando non lo hanno salvato, figurate se si questi sono altri voti. Ho capito, però questa cosa mi pare leggerissimamente più grave di quella precedente. Sono altri voti che vanno alla Lega, perché poi la gente: bravo Salvini, bravo, noi abbiamo Putin, perché c'è pure la gente che ama Putin, attenzione. Ma tutti questi sovranisti, come un culo c'ha due chiappe, ogni testa c'ha il suo mondo, diceva qualcuno. Da quanto tempo noi lo diciamo che tutti questi sovranisti, che già il sovranismo di per sé non avrebbe senso in una civiltà come la nostra di oggi, no? Tutti questi sovranisti da qualcuno devono essere pagati, no? Se non sono pagati da americani, da chi sono pagati? Dal PD, cioè russi, dal PD, che ovviamente sono pagati da tutti quelli che ci hanno un interesse al fatto che comunque non si crei un'aggregazione europea, no? Perché questo poi è il discorso. Ai cinesi, secondo me, gliene frega un cazzo. Ai cinesi, se non fai leggi liberticide come quelle americane, al cinese sta bene così. Il cinese si pensa ai beneamati di cavoli suoi. Organizzate come pare. Io tanto sono preso tutta l'Africa. Mi porto i 150 pollici di proiettore a tiro corto a 1000 euro, quando costerebbe 3500, insomma. Ma guarda che esempio tra i tanti. Invece, per esempio, stavo cercando di vedere se sul sito del Fatto Quotidiano ci fosse riferimento a questa cosa. Metti il secondo, c'è una cosa importante. Tu fai il riferimento, però poi ci siamo dimenticati di una cosa veramente importante. Vai, tu vai. No, dicevo, stavo cercando, però il titolo in prima pagina sul sito del Fatto Quotidiano è von der Leyen che dice: salario minimo in tutta Europa, migranti, paesi lasciati da soli, bisogna cambiare Dublino. Ma come? Salario minimo, io lo capisco, cioè. Te dopo no, ma possibile. Sì, no, ma non puoi non aprire con questa notizia, dai. È assolutamente una fake news. E d'altra parte, voglio dire, tendenzialmente hanno preso degli attori per fare quella registrazione. Tendenzialmente l'attuale direttore del Fatto, che è l'ex stimato aiutami Marco Travaglio, non è che abbia proprio in simpatia Salvini. Fatto sta, vabbè, dobbiamo un attimino aspettare di capire questa notizia come si concretizzerà. Gli audio ci sono e sono abbastanza inquietanti, quindi adesso bisognerà vedere che cosa querele per tutti si inventeranno, diranno che hanno usato il deep fake audio, perché si inventeranno questo, certo, cioè per l'occasione, insomma, che non era filtrato dal Deep Argon The Deep Purple, esatto, perché ricordi? Smoke on the Water. No, ma ti ricordi l'algoritmo di Beppe Grillo, il Deep Argon, com'era? Argon, insomma, se lo ritrovo il video lo faccio vedere. Comunque oggi siamo rimasti stupefatti, addirittura proprio basiti e F4, proprio F4. Una cosa incredibile, perché un certo Roberto Barabino, e chi è? Ci ha scritto uno a cui adesso tu vorrei tanto bene, no, ma uno che magari ci denuncerà perché dice non volevo essere citato, no? Ci ha scritto, scusa, perché mica ha detto che quello sia il vero nome suo, esatto, è vero, hai ragione, assolutamente. Noi lo chiameremo Roberto, ma in realtà ci ha scritto su OGM, che è incredibile, penso che è la prima volta che qualcuno ci scrive. Questa è già fatta una cosa difficile, e questo infatti è un po' complicato. Un programma geniale, divertente, scoppiettante, antigovernativo, contundente, irriverente, culturale, gutturale, avanguardista e ribonucleico, che è però da leggere le iniziali di ogni frase, magari ci ha scritto 49 milioni, no, però da ascoltare ad alto volume e in deltaplano, non sa perché. Peccato che il podcast non esca settimanalmente, vabbè, con regolarità, va bene, questa è colpa dei pizzi, no, ma con deltaplano, se vogliamo. No, ci ho commosso, ci ho commosso. Non pensavo, cioè per noi questa è una cagata sto qua. Pizzi, una domanda, perché antigovernativo? Beh, ma antigovernativo in senso generale. Forse perché parliamo male di Salvini, non lo so. No, vabbè, perché noi ci vogliamo bene come un cugino di terzo grado marocchino, no? Noi vorremmo parlare male del PD, ma che se si ammazzano già tra di loro. No, a parte il fatto che non ti danno spunti per parlare perché non fanno un cazzo. Partiamo da questo. Parliamo male pure di quando c'era Renzi. Sì, ma noi parliamo male anche di noi stessi. Assolutamente. Io ho risposto e gli ho detto: hai ragione, da domani prometto di far uscire gli arretrati. Grazie infinite. Esci gli arretrati. Quindi le meravigliose parole e nelle quali non crediamo. Scusa, quindi Pizzi, tu stai dicendo che da domani ci paghi 2 anni di stipendio arretrato? No, non detto. L'hai detto tu, gli arretrati. Esci gli arretrati, cioè quello arretrato, quelli straordinari. Scusa, Pizzi, di episodi arretrati. Pizzi, tu sei il produttore, sei riconosciuto come il produttore, hai detto anche il paron. E quindi ci devi dare gli arretrati. Il paracar. Il gran direttore. Oh, avete visto che nel 2020 esce il seguito, o meglio, lo spin-off del Grande Lebowski con John Turturro? Ma non era un pederasta quella una volta? Personaggio un po' strano, sì, non so su che si focalizzeranno, insomma. Praticamente è una storia di demore, controversa di questi che praticamente si inimicano un parrucchiere e che verranno inseguiti dal parrucchiere e da forze dell'ordine varie, insomma. Questa è la trama. Ma sempre dei fratelli Cohen? No, è di John Turturro, quindi sarà John Turturro si stimo tanto, però non so. Ma non dico niente. Comunque io direi che c'è stata una cosa bella invece che è successa in Pakistan, mi sembra. Ah no, in Svegnatistan. In Pakistan? In Dropican. Dove c'è sì, in Pakistan, quello è interessante. Che Pakistan succede delle cose strane. Meditiamo sempre che c'hanno la bomba nucleare questi. Esatto, però non sanno come. Ma c'hanno anche il fumo buono, però. Non sanno come usare. Quelle due cose potrebbero essere micidiali, però fortunatamente non sanno come funziona la bomba atomica. Secondo te questa è schiuma. Ma non fa la birra. Ma no. È schiuma, non è sapore. Mamma mia. Che breccoloni, ragazzi. A proposito, un appello agli ascoltatori del Nord. Fateci sapere se state bene, se siete integri. Musella, tu che stai facendo altro? Musella da mo che non è integro, che c'entra? No, comunque torniamo al Pakistan. Allora, c'è questo Khurram Nawaz Gandapur, che è praticamente la versione pakistana di Gandalf, che è Gandapur. Sì. È assolutamente il mago che ha commentato una notizia, un video, e ha detto che di questo video c'era praticamente un aereo che stava atterrando, in mezzo alla pista c'era una cisterna. E voi immaginate cosa sarebbe potuto succedere. Ma una cisterna di? Penso gasolio, sarà stato comunque un combustibile. Che cosa sarebbe successo se questo aereo avesse preso la cisterna? Ma invece, con un gesto, come ha detto anche Gandalf, il pakistano, con un gesto eroico ed incredibilmente veloce del pilota, ardito, è riuscito ad evitare l'impatto. Infatti questo video dimostrava come questo pilota ha appunto evitato l'incidente. La città, se non sbaglio, era Liberty City, una cosa del genere. Credo di aver capito. Vi ricordo che quindi parliamo di una di un video che ha qualcosina a che fare con GTA, con Grand Theft Auto. Ah, questo che... lo decide, questo lo dice lei. Così, questa è un'illazione, assolutamente. Perché, però, in effetti, guardandolo, potrebbe essere stato estratto da GTA 5. Potrebbe, però, secondo me è vero. Se lo dice Gandalf, sì, Gandalf pure che secondo me è lo spacciatore di fiducia. Sempre in mente, comunque, un pacchetto di fumo grosso. C'è la notizia di oggi che batte questa, secondo me, perché c'è un influencer che ha messo in vendita l'acqua che ha usato per fare il bagno a $30 a vasetto. E ha fatto il botto. Vabbè, vi meravigliate. Proprio, guarda, magari lunedì, visto che si parlerà di cose dal Giappone con Casciola, tu gli farei questa domanda. Ma è vero che le ragazze, le iniziali giapponesi vendono le mutandine usate? Vabbè, questo lo sappiamo. Per dire, figurati. Se quello sì, perché l'acqua del bagno no? Ma io avrei un titolo invernale. Perché questo è occidentale. Questo programma, dico quello che Casciola, business is business. Lo chiameremo Venite Impreparati. Cioè, quando noi veniamo impreparati, non sappiamo un cazzo e facciamo le domande e qualcuno ci risponde, spero, se no siamo cazzi nostri. Comunque, insomma, Gandalf... Però, secondo me, se lo facciamo come si deve questo programma, ragazzi, dobbiamo farlo come facevamo Runtime Mondiale l'anno scorso. Dobbiamo fare rigorosamente smangiocchiando. No. Coi salatini, sì, secondo me viene meglio. Comunque, Gandalf il pakistano ci ha sorpreso, anche questa cosa è stata molto bella. Che poi era lo stesso paese del ministro Gattino, no? Sbaglio. Forse era Pakistan anche il video. Scusa, lì si usano i videogiochi. Oh, quelli stanno avanti, raga. Cioè, quelli si fanno i bomboni seri, mica così. Insomma. Mentre c'è un video che è diventato virale, molto bello, dalla Spagna. Un disabile in sedia a rotelle viene sollevato dalla folla per poter vedere meglio il concerto metal. Bello. In realtà l'hanno fatto pogare, non è che era per vedere se il video. Cattivi, in realtà se lo volevano tirare. Se fossimo cattivi, in Italia abbiamo fatto di peggio, cioè un disabile è stato eletto al Parlamento ed è diventato vice ministro, però vai a capire quale. Questo è brutta, è cattiva, questa, è cattiva. Questa è brutta. È cattiva, però. È cattiva, sì. Bisogna dire, insomma, che... Molto cattivo. Queste cose non si dicono. No. Bisogna anche un po' dissociarsi a volte. Dissociamoci da noi stessi. Guarda, Vinci, io... Tanto se mi fanno le multe... Io le pago tutti in biglietti da 30 euro. È vero. Che è vero. Si può fare. Beh, c'è chi li accetta. Però questa notizia che tu stai per dire, ricordate sempre che uno che noi conosciamo, un sant'uomo, ci aveva già pensato. Chi è un sant'uomo? Ci aveva pensato ai fogli da 18 euro. Ah, sì, la moneta da 18 euro. Esatto, certo. No, vabbè, quella è un'altra. Quella sono tutti derivati di comunque dei soliti ignoti, cioè non è che. L'arte, no, cos'è? Qual era il film in cui Totò e Peppino cercavano, avevano le matrici per falsificare le banconote? Non c'entra niente con i soliti ignoti. Non ricordo. Vabbè, comunque. Comunque, c'è stato questo episodio, non sappiamo dove, non sappiamo perché. Quindi, una volta ti ricordo. Perché se è vero. Vi ricordate che all'epoca, noi che siamo vecchi, a Roma c'era. Non la notizia. L'ha detta. No, non l'ha detta. No, non l'ho detto. Solo detto era sottintesa, vabbè, dilla. Che praticamente qualcuno, un truffatore, si è presentato con una banconota di 30 euro per pagare, non so, tipo 26 euro di merce, di roba. Quindi, falsissima. E gli hanno dato anche 3 euro rotti di resto. Per la precisione, perché il dovere della precisione, esatto. No, ma dicevo, ti ricordi che quando eravamo giovani noi si usava dire a Roma perlomeno se più falso di una banconota da 20.000 lire. Oh, c'è Corrado, abbiamo dato una notizia che potrebbe anche interessarti. Dopo te la ridò. La cosa divertente è che poi dopo un po' di anni la banconota da 20.000 lire la fecero veramente. È durata poco perché dopo un paio d'anni è arrivato l'euro. E poi lo sapete che una volta stavo un po' come le monetine da 50 stavo in pizzeria, lire, stavo in pizzeria a Pesaro molti anni fa, almeno c'erano ancora le lire. E c'era sta pizzettaia che ci raccontava una volta erano entrate ste zingarelle, non per sempre zingheri, che praticamente durante hanno preso la pizza, no, stavano mangiando roba genere, durante tutto questo periodo che sono state in questa pizzeria a taglio cantavano sta cantilena che era 100.000 italiane, e questa sta cosa che alla fine quando questi sono andati a pagare che ne so con 20.000 lire e quella gli ha dato il resto sulla, su 100 euro perché gli è rimasto in testa sta cantilena ipnotica dei 100.000 italiani. Ah, non è come alla marea in conto a tre. Non so cosa dici. No, pizzi. Il gioco? No. È la marea in conto a tre, è la marea, se capirai, è la marea. Oddio, mi dice qualcosa, però in questo momento... Comunque scuola, il 35% degli studenti terza media non capisce un testo di italiano. Anche il 50% dei docenti mi sono permesso cinicamente di affermare a mia volta, però vabbè. Poi crescendo si migliora, si arriva al 30%. Per il dolore invece di Marco Gualdi è morta l'attrice Valentina Cortese, che tu sapevi, no? Era molto morta. Beh, coccodrillo per coccodrillo è morto anche Rip Torn. Ma chi è questo? Rip Torn, il capo dei Men in Black, dai. Ah, ok. Comunque, ragazzi, Corrado Nannavecchia ci dice 4:28 del mattino solo per voi. Quindi sì, ringraziamo. Gli ho chiesto. Beh, lui sta in Giappone. Ah, Giappone, ecco, quello non sape, per quello gli ho chiesto per precisare esattamente lui dove fosse. Sta in Giappone, precisamente a Sakasame Tikasaka. Okoto Pokoto. Beh, di Pepper Izzard ha raccolto citazioni di Deep Space Nine, cosa che tu non avevi. Deep Space Nine, no, prima stagione. Comisario, il gioco. Comunque pare che Angela Merkel ogni tanto viene colta da Adre Marella. Perché quando passa Berlusconi al Parlamento Europeo si bagna. Secondo me lei in fondo un po' gli manca a Berlusconi. All'epoca ci si divertiva. Ragazzi. Berlusconi era un per peggio, però ragazzi. Però almeno si presentava. Oggi hanno fatto vedere la foto di Salvini al Parlamento Europeo, una sedia vuota. No, ma lui ci manda cose. Vabbè, ma lui manca al ministero. Ma lui ci manda coso, no? Beh, ma perché con Facebook si può lavorare da tutto il mondo. Ci manda coso, il suo sostituto coso. No? Sto cazzo! Ci manda lui. Però comunque lui è un po' sto coso, è uno che batti i pugni. Dicono io so coso! No, lui manda solo i bacioni. Ah, coso batti i pugni. Ma se sente, infatti, un tizio gli arriva. Coso è andato a dire a Merkel vaffanculo. Se sente. No, coso è andato a dire cosa. Può dire, cioè, sto coso che manda Salvini al posto suo è uno che c'ha, sa, regà. Cioè, comunque, ragazzi, io volevo raccontare. Finisco qui con la notizia triste. Che la notizia triste dice che maltempo all'ex Ilva di Taranto una gru precipita in mare, c'è un disperso. Mazzo. Una brutta storia. Ma anche una brutta, come dire, una brutta morte nel caso. O brutta dispersione. Sì. No, io volevo dire, la settimana scorsa eravamo occupati nello speciale, quindi abbiamo saltato a più pari un fatto che anche da un punto di vista, diciamo, della lettura politica del periodo era importante, cioè che dalle elezioni europee dal rischio di procedure di infrazione per i conti, no? Che l'Europa ci stava per propinare, il governo è tornato gridando vittoria perché non ci hanno aperto l'infrazione, ma ricordiamoci che intanto siamo sotto osservazione anche per l'anno prossimo e che comunque c'è quel piccolo problemuccio dell'aumento dell'IVA che tra qualche mese dubito riusciranno a impedire. Va continuamente di ma nel frattempo non aumenterà. Sì, è come la benzina che abbasseranno le accise, no? Però la cosa importante è accise. Accise. L'anno che verranno rimpatriati. No, ma la cosa importante è che in tutto questo sono riusciti a non far percepire la gravità del fatto che il Parlamento Europeo ha rinnovato le cariche, sono riusciti, l'Italia è riuscita ad avere una sola posizione di rilievo, che è il Presidente della Commissione Europea, e chi è? David Sassoli. E chi è David Sassoli? Uno del PD, ragazzi, che penso che Di Maio non ci abbia dormito per una settimana. Vabbè, ma Di Maio, sti cazzi. Cioè, fondamentalmente... Di Maio, che memore del suo passato professionale di BB, ricordiamoci che gli amici lo chiamano Gigino Bibitaro. Lui sta a pensare che modo ritornerà a far Bibitaro. Esatto, tant'è che in questa settimana, perché lui deve la baracca costruita davanti casa, gli hanno dovuto buttare giù per non dormire. Lui deve dimostrare le sue origini, perché ovviamente non si rinnegano. questa settimana, tra tante cose di cui poteva parlare, è riuscito a fare un'esternazione del tipo: basta distributori che nelle scuole vendono le Coca-Cola, meglio l'aranciata. Ma ora, cioè, sotto quale cappello istituzionale o politico ha detto sta cosa? Di aranciarla spremuta, quella quella voleva dire forse. Magari c'è, cioè, un campo di arance, non lo so, veramente ragazzi. Quello dei carcerati, no, ma sicuramente l'aranciata quella, dice quella. Scusa, rifai il gesto che in radio piace. No, l'aranciata la spremi e te fa la bella spremuta, ma sì, sicuramente è meglio. A volte tu apri l'aranciata e esce e fa schiuma pur non essendo sapone. Esatto. Comunque l'aranciata... Ragazzi, la Rai ha lasciato a casa Antonella Clerici, dice, abbiamo musica triste? Nei palinsesti della nuova stagione televisiva la Clerici non ci è. Colpito. La barra ha colpito. L'hanno riferito al presidente, dice, ragazzi, allora, ma veramente hai detto questa cosa 14 anni fa e allora non puoi più lavorare? Ma forse perché ha rotto il cazzo? No, ma così, ma questa cosa della barra, no? Ma perché no, ci è saltato sopra? Non so, perché secondo me è semplicemente la guardava più nessuno. Può essere. Ma io non so perché la guardassero prima, cioè non, io non mi stupisco del fatto che non la guardi nessuno, mi stupisco se la guardassero. Basta, perché continuasse la storia. Basta, cioè voglio dire, veramente sono quelle gag fintissime che funzionavano quando c'era in vita Mike Buongiorno. Faceva gaggare? Non era una gag. Tu hai mai sentito le pubblicità di Antonella Clerici? Allora, quelle di MD, mamma mia se le sentite. Quella è la sua capacità recitativa. Tu prendi quello. È bella quanto brava, direbbe Berlusconi. No, no, e prendi quello che è successo con la barra. Capisci lì che quando ciò che è successo con la barra è assolutamente autentico, perché non è in grado di recitare. Sì, ho capito, ma no, ma aspetta, guarda che forse tu non hai inteso. Io non dicevo che lei recitasse, io ho detto che quella cosa era organizzata. Gliel'hanno organizzata, è chiaro, lei. Cioè, nel senso, lei è la vittima della situazione. No, perché se l'avesse saputo avrebbe fatto un casino, perché no, ma non perché si sarebbe sentito offeso, ma perché non sapendo recitare avrebbero sgamato tutti che erano. Esatto, canzone. Esatto. Quindi sì, non gliel'hanno detto. Probabilmente gli hanno detto dopo, va tranquilla, mi zia. Perché lì la produzione seria avrebbe chiuso subito, cioè invece lì l'hanno proprio fatta, gli hanno fatto per trabocchettone, capito? Cioè. Come i famosi governi seri che a questo punto si sarebbero dimessi, no? O come quella là che ha telefonato, quella faceva il crucifisso tubone, ma ricordavate? Quello, cioè, quello in cui la Veniest, cinque siamo... verticali, paraplegico. Vabbè, esatto. Scusi, ma... no, non ho fatto la domanda. Ma... E poi non solo era che non avevo fatto la domanda, ma era pure completamente bianca. Nel senso, ci sai, c'erano delle parole che ho capito. No, ma poi lì allora, la gente ci ha mangiato. No, ma lì hanno spiegato una cosa, hanno raccontato un fatto, diciamo, a posteriori, che in realtà lì la grezza fu doppia, perché lui diede la risposta ad un'altra domanda e questa cosa successe perché, siccome era arrivato il sospetto che qualcuno avesse truccato, e poi alla fine era un finanziere che, diciamo, che doveva supervisionare la regolarità del concorso e che passava le domande a chi di dovere, siccome era arrivato questo sentore negli uffici della RAI, il capo progetto che seguiva il programma cambiò la domanda all'ultimo momento, dopo che diciamo era stata già spifferata. Quindi il tizio cosa fece? Senza che la domanda venisse letta, diede la risposta, ma la domanda non era quella, e quindi sgamarono che c'era stata proprio la... No, ma questa, dico io, era ancora peggio. Era quella con Mara Venier. No, non era Mara Venier. Era il Cruci Verbone. Quella, sì, la Cruci Verbone era l'altra. Era cinque verticali. Era come si chiamava? Sì. Adesso voglio sapere, far sapere... E sapere perché l'hai detto la domanda? No, non ho detto cazzo. Ce ne fu forse uno pure con Enrica Bonaccorti nella Rai. Comunque, più di uno. Sono diversi, c'è stato pure quando c'era l'oggetto misterioso una volta. Che cos'è questo? Sto cazzo. Qualcuno chiamò a dirsi di sto cazzo. Sì. Ma all'epoca, cioè, voglio dire, te la giochi, come dire, la tua possibilità di vincere il tuo momento di notorietà. I famosi leoni da telefono, perché erano praticamente, nessuno poteva andare a casa. In realtà, che poi ci dovevi riuscire a prendere la linea su milioni di persone che intervenivano, cioè ci doveva essere, non c'era filtro, all'inizio non c'erano i filtri, ma poi anche se non c'era filtro, cioè, dovevi avere pure il coraggio di farlo, perché oggi sembra tutta una bravata, andavano sto cazzo, però allora, cioè, secondo me la gente non... Vabbè, ma perché oggi è normale, all'epoca diventavi un mito, per un quarto d'ora eri celebre. Sì, anche se nessuno avrebbe mai saputo chi eri, insomma. Vabbè, ho capito, però vuoi mettere chi ti conosce, la mamma ti riconosce sempre. Screanzato. La parlaccia in televisione. Che figura. Adesso dobbiamo scappare in Australia dalla vergogna. Poi c'era anche quella famosissima di Mike Buongiorno con la tizia che si infilava le risposte nel tizio. Ah, sì, sì. Quella fu che poi fece la scena di Svenire. Cosa sta leggendo lì? Ah, sì, sì, sì. Vediamo, sì, dopo lui è impietoso lì. Lì lui era talmente incazzato che ti fa presupporre che quel fatto fosse vero, perché era talmente nero di rabbia che non poteva essere organizzato. No, sto leggendo gli appunti, ma come leggi? Come gli appunti, Ma sarebbe che legge gli appunti, eh? Buon'anima di Mike, ragazzi. Era bestemmio fino a morirla, eh? Era terribile, Mike. Mamma mia. Sì, era una, diciamo, in diretta, tra virgolette, cioè davanti alle telecamere era una cosa, ma doveva essere veramente un mostro di cattiveria. Poi professionalissimo, però a modo suo doveva essere un mostro di cattiveria a telecamere spente. Chi lui? Ma secondo me, guarda, neanche da... vabbè, quei professionisti lì... cioè quelli lavoravano sul filo della tensione. Sì, no, ma poi c'era pure un altro... come se spegnevano le cose, secondo me scaricavano pure la... Ma poi all'epoca, ragazzi, c'era un'altra percezione proprio, diciamo, dell'educazione professionale. Di conseguenza c'erano proprio altri valori. Cioè era una serietà professionale che oggi non la troveresti in nessuno degli attuali... come li chiameremmo oggi? Una volta si diceva il presentatore TV, oggi come lo chiameremmo? Intanto Pizzi è andato, sì. Ragazzi. No, volevo comunicare questa chiamata al neurologo. Che è un po' triste, devo dire. È tanto la serata. Un po' mi dispiace che Gianluca Vialli ha comunicato di avere il tumore al pancreas. Di nuovo? In che senso? Vialli aveva già avuto un tumore abbastanza grave e ne era venuto fuori, ma non so se è sempre al pancreas. Evidentemente. È brutta questa cosa, perché sai che il tumore al pancreas neanche con i soldi di Steve Jobs te salvi, eh? Infatti Steve Jobs... appunto, non è un esempio fatto a caso, eh? Vabbè, che tristezza. Vabbè, no, cioè, ha scritto una lunga lettera, bello, anche cioè, bello, mi spiace, cazzo, bello no, però raga, la vita a volte è un po' così, cioè, noi che ci abbiamo qualche annetto in più, Vialli ce lo ricordiamo bene, un po' ci dispiace, insomma. Sì, che poi lui è sempre stato uno preciso, cioè non è che ha mai fatto sborone, i capelli da fricchettone. Con Remito che all'epoca della Sampdoria si ammazzasse le sigarette, non so se di altro, però no, insomma Vialli, che... Vialli? Quello era coso, era Mancini. Non sapevo anche Vialli, no? No, era Mancini quello che fumava pure tanto. E quando faceva allenatore pippava proprio del brutto. No, Vialli non lo so, però lui si è sempre comportato. È sempre stato uno preciso, mi è sempre piaciuto Gianluca Vialli. Quindi sai, poi alla fine, vabbè, ti dispiace in generale, no? Però cazzo, brutta storia. Vabbè, niente, scusate. Io non so se me la sento di andare avanti per dimenticare, vediamo. No, infatti io non so più di che cosa parlare. Di cosa dobbiamo parlare? Ma quello che potevamo dire l'abbiamo detto, ecco, a meno che non succede, che so, non è che c'è un colpo di stato da qualche parte, qualche notizia breaking news che possiamo riportare prima degli altri, che ne so. No, però oggi io su YouTube ho scoperto una storia fighissima, una storia che riguarda il campionato di calcio del 1978. Praticamente partecipò per la prima volta una squadra africana che era lo Zambia, metti ipotesi. Lo Zambibar. Il Congo, lo Zambia, mi pare che era lo Zambia. Che praticamente che succedeva? Che sto Zambia era andato a sti mondiali. Viveva sotto una dittatura particolare, sto generale voleva esportare la propria ideologia, la propria immagine, quindi ci teneva, avrebbe usato questo mondiale come veicolo. Però praticamente questo è un po' tutto il retroscena, ma in realtà il tutto inizia, sto racconto, dagli ultimi tre minuti dell'ultima partita del girone nel cui Zambia era già stato eliminato, ed era Zambia-Brasile, dove il Brasile già stava vincendo 3-0, e proprio agli ultimissimi minuti c'era questo calcio di punizione che doveva tirare a Riverinho, che avrebbe sicuramente segnato, perché insomma quello, come tirava, segnava. E a un certo punto, questa è la storia di un tizio, di uno dei giocatori dello Zambia, che prima che l'arbitro fischiasse per fischiare la punizione, ha preso la rincorsa, ha colpito, ha dato un calcio a sto pallone e l'ha mandato a fanculo all'altra parte dello stadio. E l'arbitro è andato lì e l'ha ammonito. E questo gli ha detto, ma perché non potevo fare? Allora tutti hanno sempre pensato, vabbè, poracci, questi sono dello Zambia, è la prima volta che partecipano ai mondiali, può essere che manco conoscono le regole del calcio. È possibile. Invece, praticamente, che era successo? Era successo che questi, la prima partita, questi persero praticamente 2-0 con la Scozia, giocando un partitone. Tutti dissero: ah, che grande emozione, che grande impegno, che organizzazione del gioco ci hanno messo questi. Perché il dittatore, quando ha detto: se voi fate bella figura, io vi regalerò 45.000 dollari a testa, macchine sportive, ville, di qua, vi farò fare la vita da signori. Quando praticamente nella seconda partita si era capito che tutte queste cose gli avevano messa una stronzata, questi sono andati in campo smucinenti, cioè nel senso dice: no, ma che cazzo, sono stati presi per culo, sono stati frodati e roba del genere, e persero praticamente questa seconda partita, non mi ricordo con chi, 9-0. Allora praticamente il dittatore lì ha praticamente che ha fatto? Ha mandato le guardie dentro l'hotel, ha fatto uscire tutta la stampa. E praticamente l'ha impalati, cioè l'ha messi tutti, insomma, prego, no, l'ha messi tutti in fila e l'ha minacciati dicendo: se nella prossima partita perdete più di 3-0 io mi stermino a tutti, comprese le vostre famiglie. E questi quindi sono entrati in campo non proprio, e hanno fatto sto partitone con il Brasile, che ovviamente stava a vincere 3-0. Ma questi non è che possono andare al Brasile e dire: senti, non qua fanno altro come, perché se no. E questi si sono ritrovati a quest'ultimo minuto con sta cazzo di punizione, e questo qua che ha fatto sta botta da matto in realtà ha salvato tutti. Beh, in qualche modo è stato un eroe, perché praticamente lui tirò sta punizione via, cioè tirò sto coso e venne ammonito dall'arbitro, però poi passarono i minuti e l'arbitro dichiarò finita la partita, e quindi loro non hanno mai perso più di 3-0, e quindi tutto. Però un vero dittatore avrebbe detto: sì, però sti cazzi mi ammazzo lo stesso. No, perché se no che dittatore sei? Li ha ammazzati, però dice che hanno vissuto una vita di vessazioni, di grosse problematiche durante il resto della loro vita. E questo personaggio pare tipo morto nel 2015. Non so neanche che brutta storia. Che momento di sterrima tristezza, no, ragazzi. Cioè, voi vi rendete conto quante storie assurde. Cioè noi vediamo che non sapremo mai, no, tra l'altro, perché noi vediamo praticamente gli eventi sportivi, vabbè, a parte le Olimpiadi, ma oramai anche le Olimpiadi non le vediamo come questi grandi eventi professionistici dove ci sono questi super atleti che riescono a fare cose incredibili, no? Però poi tu non sai che quando partecipano veramente tutto il mondo, e quando parlo di tutto il mondo significa anche persone che sono uscite di casa quella volta per andare a partecipare. Cioè, non ti rendi conto che ci possono essere delle storie così assurde? Cioè, guarda che queste storie assurde ci possono essere in tutti i lavori. Ti racconto la storia di un idraulico? Mario. Un giovane idraulico. Italo-americano. Saudita. Mario. No, saudita. Che sbaglia a riparare la vasca della principessa. Lei lo fa picchiare e lo costringe a baciarle i piedi per ore. Vabbè, ma lei in realtà era, parliamoci chiaro, era feticista, dai. Capito, però nel frattempo tu te lavi i piedi e ti bacia, ah sì, che bello, bacia i miei piedi. E aveva fatto. Comunque, la sorella del principe di Italia, Mohammed bin Salman, ha fatto fare questa cosa al suo. Chissà se poi è ancora vivo lui, se un giorno potrà raccontare: ah, io ho dovuto baciare i piedi, sennò vi sterminava tutte, a te, indicando i vari membri della famiglia. Chissà che cose noi non sapremo mai. E neanche vorremmo sapere poi. Queste cose dovremmo raccontarle a certi elettori sovranisti che pensano che bisogna difendere il e poi bisogna si scrive come Bologna, che si scrive come? Vabbè, andiamo avanti. Beh, sempre meglio che Toscana o Toscagna. Non so se avete visto la foto di questi esponenti della Lega Toscana che hanno fatto con la maglietta prima la Toscana. Toscana era stato praticamente sillabato sulle magliette di quattro persone, ma era stato sillabato Toscana invece si balla Toscana, cioè vabbè, quindi neanche la grammatica di base, vabbè. Com'era il 30% sono analfabeti matematici? 35% com'era? Il 35% degli studenti delle medie non capisce, non comprende un testo di italiano. Ah no, io invece l'ho letto nella matematica, che sono quasi tutti analfabeti. Vabbè, lì ma già la matematica, voglio dire, c'è la sua complessità, essere, no? Essere analfabeti in matematica significa non saper fare proprio 2 più 2, cioè proprio le basi. 3, no? 3, esatto. 2 più 2 perché fare? Perché sommare, no? Poi sarà l'altro. Chi lo fa più? Ci sono le calcolatrici. No, leggevo che in merito al riferimento che facevamo prima al tumore che aveva ucciso Steve Jobs, dice: oh, ma Steve, stay young, stay foolish, si curava con la frutta, mica pizza e fichi. In realtà magari aveva delle turbe da questo punto di vista, ma sicuramente si curava con tutta la possibilità del caso e con tutta la scienza di questo mondo. Credo che fece anche un trapianto di lui ebbe più di un tumore, credo che fece un trapianto di pancreas e poi però ebbe una recidiva o qualcosa del genere, quindi no, quando si trattava di curarsi non era poi così hippie. Ma vabbè, ma poi io non credo che lui abbia continuato una vita a essere quello che... Ah, eccolo qua, l'ho ritrovato. La vera storia della punizione battuta al contrario. Ve la linko in chat perché veramente, ragazzi, secondo me a volte ci sono delle storie troppo assurde, insomma. Ma io sono curioso. Lui era fruttariano, era crudista e fruttariano, però io non credo che poi dopo, nel passare della sua vita, abbia continuato a fare l'hippie con i piedi zozzi. No, l'hippie con i piedi zozzi no, però diciamo alcune convinzioni della, diciamo, di quelle che erano i retaggi degli acidi negli anni 70 un po' gli erano rimaste. Lui faceva delle cose strane, al di là del fatto che aveva tutti vestiti uguali come fosse veramente un cartone animato disegnato negli anni 80, aveva solo tutti questi lupetti neri e jeans, tutti così in serie. Ma la cosa più divertente è che lui sprecare energie per scegliere cosa lui andava in giro sempre con la stessa macchina. Lui aveva la fissa per la Mercedes, se non sbaglio SLK, ovviamente il mega top di gamma, però aveva una particolarità: tu sapevi che quella macchina era di Steve Jobs perché andava in giro senza targa. Vedete, no, allora la cosa divertente è che in America la legge ti permette, quando compri una macchina, quando sei obbligato a mettere la targa, lo Stato della California ti dà 6 mesi di tempo, 5 mesi e 29 giorni. Assurdo, sta cosa. Lui ogni 6 mesi si cambiava la macchina, cioè, per poter andare in giro sempre senza targa, sempre lo stesso modello, non è che cambiava sempre quella macchina, ma per averla sempre senza targa ogni 6 mesi ne comprava una nuova. No, dico sempre per le leggi civili, la sicurezza sul terrorismo. Sempre per le cose utili da sapere, sì, cioè, voglio dire. Va bene, va bene. Dice che esce la Switch Slim, eh? La Switch Lite, no, che Slim. Cazzo, però no, mi interessava di più la seconda notizia che Nanna Vecchia aveva collegato, che era incendio nel John, e sto cercando di capire il John che cos'è. Quindi spiegaci, Nanna Vecchia. Tanto io ho messo il link di sto tizio che racconta sta storia incredibile. Comunque sto leggendo, poi dopo... Però sai chi lo dovrebbe raccontare una storia di questo tipo? Chi è, diciamo, la voce per antonomasia per raccontare un aneddoto del genere, se non Gianni Minà? Sì, vabbè, ma questo va bene, ragazzetto. Io non mi ricordo neanche. Come la voce di Gianni Minà? Un po' sì, sì, c'è un po' di feppola. Il bello della diretta. Il bello della diretta. Bravo, esatto. Allora, stavo leggendo una cosa sul reddito di cittadinanza. Ah, John è un quartiere di Kyoto, ok, chiedo scusa, non lo sapevo. Addirittura tutto un quartiere ha preso fuoco. No, probabilmente un incendio iniziato da un ristorante che era nel quartiere del divertimento delle geishe e dei locali. Così, ma vabbè, ammetto la mia ignoranza. Come si unisce questa cosa con il reddito di cittadinanza, il ristorante? Perché stavo leggendo che il reddito di ristoranza. Al reddito di cittadinanza, la gente che lavorava, la bassa manovalanza, i lavapiatti, insomma, sono spariti. Veramente non c'è più gente che... Che cazzo, ma che cosa fai? Fanno il culo a lavare i piatti a 600 euro al mese se posso sta a casa? Lavorano solo weekend se gli va. Certo. Lavorano. Questa è la denuncia dello chef Piero Parisi. Ragazzi, ma vabbè, lasciamo perdere, perché comunque il concetto è sempre questo: queste persone che si lamentano di non trovare manovalanza e manodopera si basano sul principio che comunque li debbano sottopagare. Certo. E allora grazie al cavolo, no? Però effettivamente al sud il reddito di cittadinanza è un'alternativa, come dire, appetibile a lavorare, perché la differenza tra un reddito da lavoro per un lavoro di base full time e il reddito di cittadinanza che potresti riuscire a prendere è talmente, la forbice è talmente ridotta che tutto sommato ci sai che c'è. Invece di prendere 800 euro al mese e farmi il culo, perché poi quegli 800 euro al mese il culo te lo fai magari veramente, ne prendo 600 ma sto sul divano. Ah, facciamo i conti: Netflix su 10 euro, la connessione su 20, quello e quell'altro. No, ma poi ti pare che cibo spazzatura tutto l'anno. Che mi faccio 2-3 piotte? Beh, lì mi dà un po' di nero, quella che fa un po' di nero. Oggi ho ricevuto una telefonata in ufficio. Dobbiamo camuffare la voce? No, però aspettate. Allora, mi serve un volontario che mi faccia l'agente immobiliare. Vai. Sì, pronto, agenzia immobiliare, buonasera. Un secondo, scusa. Ho risposto. Essere precisi. Dream. Pronto, agenzia immobiliare. Buongiorno, scusi, guardi, io ho letto questo annuncio di questo affitto che avete qui, l'affitto che costa... Sì, sì, tre locali con Antani, sì, sì, esatto. Sì, sì, sì. È ancora disponibile. Ecco, ah, beh, no, perché faccio una domanda. Sì. Così, per curiosità mia, ma i proprietari chiedono referenze? Sì, guardi, serve la busta paga. Busta paga. Al minimo, insomma. Ma io, comunque... Volendo c'è il reddito di cittadinanza, possiamo, va bene, penso che vada bene. Vabbè, no? Prendiamo l'appuntamento e ne parliamo con i proprietari. Però guardi, una cortesia, però solo di pomeriggio, perché la mattina lavoro. Lo so, a volte bisognerebbe non di niente. Ragazzi, com'era una volta il 117 il numero della finanza, della finanza per denunziare le frodi? Beh, sarebbe da denunciarlo questo, effettivamente. O comunque denunciare è un po' difficile, perché poi devi testimoniare, cioè è proprio difficile. Con 117 si potevano fare. Prima c'era l'epoca delle denunce anonime. È la Guardia di Finanza che va lì a controllare, sì, se questo, sì, sta, sì, a lavorare. Sì, sì, quello, cioè, è vero, quello è vero, quello è vero. Ragazzi, ci vuole la polizia segreta, ragazzi. Ci vogliono gli infiltrati. Ci vogliono gli infiltrati. Ci vuole l'ostracismo. Senti che tutti. Allora, attenzione, perché Peppe Rizzard, che ovviamente vive nel contesto del profondo sud, no, qualcosa magari sa, dice: è troppo semplicistico il ragionamento. I soldi, integrando il tuo reddito. Aspetta, che ha. No, me lo sono immaginato. Non so perché Rizzard ha cancellato il. Ma perché, come si fa a cancellare? Cioè, sicuramente c'è un modo che noi ignoriamo. No, no, si possono cancellare i commenti, sì, ragazzi. Rizzard, l'abbiamo visto, rimettilo. No, lo stavo leggendo forse lo starà riscrivendo. Va ad integrare quello che dovrebbe essere. Ecco, l'ha riscritto, attenzione. Okay, troppo semplicistico il ragionamento. I soldi integrano il tuo reddito. E c'è gente che se l'è presa in saccoccia con solido 10 euro. Vabbè, ma questo sì, per carità. Poi dice, poi quello che ti danno devi spenderlo tutto e non per quello che cazzo ti pare. Aggirabile, ma non così immediato. Prelievo contante limitato. Insomma, sì, sì, ma per carità. Io non sto dicendo. Quindi che... lo difendiamo. No, no, io sto dicendo che è preferibile. Però se tu ci pensi, una volta che tu parti dal presupposto comunque di usarlo tutto e di sopravviverci. Sì, usalo tutto. Perché farsi il mazzo per X quando puoi stare seduto per X meno N, dove quella forbice è magari il 20% del totale? Già il fatto, per esempio, se io invece di andare al lavoro tutti i giorni sto a casa, risparmio il pranzo, la benzina per andare al lavoro, eccetera, magari ci vado in pari. Lo so che sto estremizzando e banalizzando, no, un concetto, però di base facevamo prima, vado a lavorare i fine settimana, come diceva al limite, esatto, e arrotondo. Comunque, cosa posso comprare con il reddito di cittadinanza, cosa non ci posso pagare? Ecco, mi basta guadagnare quello che non ci posso pagare, il resto ce l'ho già pagato. Sì, anche perché paradossalmente magari di 1000 euro al mese magari me ne servono 400, e per quelle 400 euro magari invece lavoro, perché magari quello che va a lavorare solo sabato e domenica si prende 200 euro a fine settimana, mentre invece quello che lavora tutta la settimana se ne prende 300, e quindi tutto sommato dici, ma perché? Purtroppo sono scelte. Vabbè, sempre, il problema poi è sempre ovviamente che c'è il sottopagatesimo, questa religione che è tutta quanta, diciamo, nel territorio nazionale, che ovviamente sembra che ci siano molti adepti di questa religione, per cui... Vabbè, ma purtroppo in alcune zone d'Italia il concetto di, come dire, pagare per restare a casa non fa un cazzo, è proprio, come dire, la chimera, è proprio il sogno di una vita. Anche se diciamo magari è una cifra diciamo modesta, perché partiamo da un presupposto: il reddito di cittadinanza è uguale in tutta Italia, ma il costo della vita no. A Roma con 1000 euro al mese fatichi a vivere, magari nel profondo sud con 500 fai una vita diciamo così di sopravvivenza, ma una vita che ti permette di fare quello che devi fare. Cioè, non ti compri la macchina sicuramente, però perché non comprare la macchina, insomma? Esatto, se non devi andare al lavoro, cazzo ci fai con la macchina? Sono spese, cioè, è l'assicurazione, è il bollo, è la benzina. Dovresti andarlo a cercare almeno il lavoro. Ci sono i tutors. I Netscape Navigators. Sì, you learn navigator. Che poi nel giro di 3 o 4 anni si trasformeranno in delle simpatiche squadracce della morte che andranno praticamente a uccidere tutti quelli che hanno reddito di cittadinanza, al quale non possono trovare lavoro perché non gliela fanno. Le squadracce della morte. Qualcosa dovranno farsi i Navigator, insomma, prima. Cioè, se non riescono a trovarti il lavoro. Intanto hanno trovato per loro stessi, perché anche se diventi navigator, vabbè, 2 anni. E anche quello è sempre uno scambio elettorale. Sì, ma è chiaro. Vabbè, ragazzi, ma voglio dire. Tanto noi pagavamo. che ce frega. E io pago, diceva Totò. Vabbè. Io intanto voglio vedere se per caso c'è qualche aggiornamento su, sui canali mainstream di news relativo a questa questione del... no, spettacolo del Grudell'Ilva a Taranto, va bene. Guardi, dice Rizzard, c'è pure la religione del cugino. Mio cugino con la X fa, che con la X fa meglio. Capito perché non l'avevo letta? Perché non l'avevo capita, perché ho scritto da cannarsi. Che vuol dire, scusa? Non lo so. Pizza c'è il nuovo. Questo è per te, è un nuovo poster ufficiale della serie di l'ho visto. L'hai visto? Come ti pare? C'è la vigna. Ragazzi, una vigna, però c'è pure il cane. C'è il cane, sì, quella è una novità. Una novità che non ci saremmo mai. Come si chiamerà il cane? Esatto, sì. C'è il Toto cane. C'è la data. Data, no. Data. No, anzi, si mormora che forse potrebbe apparire Data nel corso della serie. Come si può chiamare? Potrebbe apparire Data. Secondo me, il cane si chiama Q. Che figata, sarebbe carina come cosa. Vabbè, ma... Visto il profondo rapporto tra lui e... Bobby. Oh, vabbè, via. No, ma poi lui è d'origine francese. Bobby. Allora si chiama Bobby. Bobben. Oppure, no, Remy, lo chiama Remy. Dolce Remy, metti sto faser qui. Ma Remy non era il fratello. Eh? Non era il fratello Remy. Sì, può essere, sai. E quindi come chiami il cane al cane con il Per me Remy è quello di Ratatouille, non so come si chiama il fratello di Ricardo. No, Remy è Remy, oh. Vabbè, Remy riparte. È vero che qualsiasi cosa ci sono i francesi mettono Remy, perché... Remy. Che è un po' come Mario. Però Remy è Remy, Remy gioco, ragazzi. Cioè. Con il babbo! Esatto. Remy è come Mario in Italia. Cioè, c'è la versione francese Marion, cioè... Capito? Invece Remy... Nel Mario Rossi, uguale. Bene, insomma. Vabbè, facciamo a Toto cane. Allora, io per me è Q. Il fratello si chiama Robert. E il nipote è il nipote. Il nipote. Dicevo, il fratello di Picard si chiamava Robert. E il nipote René. Ah, René, ecco, quindi c'era un... Mi fa male il René. Esatto, destro e sinistro. Mio cugino con X, ovvero cifra miserrima. Lo fa meglio, dai cazzo. Ma che cazzo vuol dire? Io non ho capito. Ah, adesso ho capito. Diciamo, mi fai il lavoro X, tipo, che ne so, mi rifai l'impianto elettrico. Voglio 1000 euro. Ah, mio cugino lo fa meglio. Con la metà, sì, lo fa meglio. Sì, pure il cugino di Michela lo fa meglio. Sì, sì, sì. L'impianto elettrico, soprattutto. E i condizionatori. Tutti i condizionatori. Noi gli vogliamo bene. Assolutamente. Poi quando mi aggiusteranno, ancora di più. Gualdi, le peripezie, sì, di casa Gualdi, come procedono i lavori? Sono fermi ormai da un mese. Perché non si trova l'altro capo del cavo? Perché non c'era l'altro capo della strada, praticamente. No, vabbè, no, sono lenti. In questo momento si sono fermati. Perché ricordiamolo, hanno sospeso i lavori a casa per farli in agenzia, e si sono fermati anche in agenzia. Anche in agenzia. Ma lo fanno l'ombra del maltempo, però, eh? Beh, certo. Questo maltempo che oggi è piovuto, però sono già 10 giorni che si sono fermati per precauzione. Eh sì, perché non si chiama un'allerta meteo, visto mai. Guarda, questa simpatica consuetudine delle aziende che fanno questi tipi di lavori edili, che fanno così: prendono un lavoro, loro magari hanno una squadra di 2 operai, prendono 10 lavori, poi vanno sempre dall'ultimo. Quando ne prendono uno nuovo, tolgono le risorse e fanno vedere che iniziano il lavoro dell'ultimo arrivato nel frattempo. Fatto, io adesso ho un pittore che viene ogni giorno a dare una mano, una volta al giorno viene a dare una mano di vernice sempre al solito posto, e c'è ancora da fare quel posto. Dice quella zona lì è spessa 3 mm più del resto delle pareti. È spessa 1 mm, però il problema è quello che quindi dovrà ricoprire anche c'è lo scalino, cioè dovrà ristuccare poi alla fine per coprire le cose. Vabbè, ma questi sono gli operai, guarda, cioè alla fine uno deve anche... Dice anche giustamente Corrado, facendo riferimento al costo della vita diverso tra nord e sud, dice: io ho parenti in Puglia e quindi vado in ferie lì e spendo la metà che in Versilia dove vivo. Ma è così, io vedo già la differenza tra Roma dove io vivo e Napoli dove vive la mia ragazza, e ci sono veramente, per la maggior parte delle cose costano molto di meno lì, molto ma molto di meno. Infatti fa la spesa lì. Ma anche il 30% in meno. Export, no? Ma guarda, sì, per certi versi sarebbe interessante. Insomma. Ma lì fa la spesa a fine settimana e torni via per tutta la settimana. Guarda, ti confesso che in alcune occasioni, quando mi è capitato di andare giù con la macchina e non con il treno, per esempio facevo scorta di detersivi. Ah, pensavo di benzina. Beh. C'è un gatto che mi assalta la mano. Bravo, bello gatto, bello. Perché il gatto fa sempre share, quindi anche in... Grande botto, gatto morto. Grande botto. Dice Peppe, la spesa può costare anche di più perché non esiste la grande distribuzione, ci sono le botteghe, le botteghucce, i mini market, e quindi insomma lì ovviamente si spende di più. Si chiama il gatto che fa le cose. Silenzio. Togli la finalmente un tributo alla mia bravura, no? La tua intelligenza. Vabbè, regà. Allora, Gualdi, se tu vuoi farci sentire le fusa del gatto, lo metti sotto al microfono, può essere che famo Natale. Il gatto pesa, cioè. Quale gatto è? Quello leggero. Come se pesa quello, pensa quell'altro. Insomma, la gatta che nel frattempo non sa se essere perplessa. Io volevo fare un intervento di una cosa intelligente, ma me la sono dimenticata. Quindi... Che intervento vuoi fare? Le tonsille? Non so, non mi ricordo di che stavamo a parlare. Take the cat. Leave the cat, grab the cannoli. Dai questi cannoli. È tutta la sera che ci dai cannoli, ma mica ci riporta. No, no, no. Peppe Rizzard, quando è che vieni a Roma con i cannoli? Cioè, se vieni a Roma devi bussare i piedi, lo sai, insomma, se no è inutile che vieni. Vabbè, io direi che ormai dai. Ce l'abbiamo fatto oggi è mini. Oggi è. Vai! La rubrica dell'estate. Oggi è mini. Oggi è mini pillole di saggezza mortificata. Ma infatti. E quindi a questo punto noi siamo gagliardi, bravi e tosti e ce ne andiamo. Ah, fanculo! Questo mix che sta dissolvendo. No, aspetta, OGM va in vacanza, noi no. Porco. Allora facciamo così, ragazzi. OGM per 2-3 settimane, così accumuliamo, Poi livore, accumuliamo. Poi torniamo e abbiamo delle cose da raccontare. Magari so, siamo andati a vedere, che so, un lago di Como. Il lago di Como? Di Como. E oppure siamo. Il lago di Gondo. Oppure è stato un colpo di Stato in Italia. Ah, Comorra, ho capito. E quindi dovremmo chiudere tutto. Cioè, io lo dico, se c'è il colpo di Stato, qui sparisce tutto. Pure i microfoni, non trovate più niente, insomma. E oppure potrebbero, che ne so, succedere cose belle, chissà. Che ne so, Gualdi si sposa, per esempio. E non mi pare una cosa bella, ma lo dico per Gualdi. Ma insomma. Per me anche, insomma, cioè, no, perché è per lui, certo. Ma una cosa bella per il futuro prossimo di Gualdi potrebbe essere operarsi l'appendicite, così si leva il pensiero. No, però c'è una città che non conosco dove. Cioè, il posto più o meno lo so, ma non so come si chiama. Che è nell'Artico. Allora, in questo posto, per andarci ad abitare, ci sono delle forti agevolazioni fiscali per mantenere proprio tipo Tenerife. Non mi ricordo. Che è Reykjavik? Non mi ricordo di quale nazione è. Praticamente è una specie di outpost che è stato messo lì per rivendicare la zona. Ma non mi ricordo proprio di che nazione. Ma è dove hanno girato la cosa? Che roba è? No, non mi ricordo. Comunque la gente che ci va là ci deve stare per un tot, tipo non so se 6 mesi o un anno. Ed è caldamente consigliato non avere l'appendicite, perché non c'è un dottore, c'è un chirurgo, quindi se c'è l'appendicite t'attacchi al cazzo. Sono brutte cose. Vabbè, insomma, non è l'unica patologia che te può venire così d'improvviso. Ma, dato che ci sono le agevolazioni fiscali e tu sei un dottore e vuoi andare lì, se sei un chirurgo, però c'è il doppio scambio, insomma, di interesse. No, ci fu una puntata di Dottor House in cui c'era questa tizia che la viveva nella base si doveva operare da sola. No, è che l'ha operata poi quell'altro. Sì, poi lei, sì, esatto. E lui il monitor aveva visto che c'era sto coagulo che saliva, esatto, al cervello. Vabbè. Ricordiamoci che lo stesso Dottor House ha provato ad operarsi da solo nella scala bagno. Sì. Senza successo. Infatti. Strano. Va bene, per consolare di che Corrado Nannavecchia, diciamo che sì, noi andiamo in ferie, ma appunto da lunedì inizierà questa trasmissione, che potrebbe essere anche settimanale, ma non lo garantiamo, che si intitola Pizzi domanda, Casciola risponde, cioè abbiamo anche la sigla, molto bella. Facciamo sentire l'anteprima, no? No, non ho preparato. Me lo per cazzo. No, niente, proprio. Zero. Siamo disorganizzati e ne andiamo anche un po' fieri, tutto sommato, dai, non è che... Perché noi siamo come? Com'era, come ci ha definito? Siamo ottimisti genericamente. No. Il tizio. Sì, vai, ripetiamolo, perché è bello, è emozionante. Se vuoi lo vado a recuperare. Non ho mai ricevuto tanti complimenti in tutta la vita. Falsi, ovviamente, dopo dalla comunione, credo. Perché che ti hanno detto alla comunione? Sono curioso. Non so, chi se lo ricorda. Però erano tanti con bello del zio, bello. Io mi ricordo solo una cosa della comunione, bello de mamma, che tocca fare, che c'è un cazzo de Commodore 64 nella vita. Zitto, io manco quello, me vanno le catenine d'oro. Io quello e il Winchester, ho fatto proprio loro. Il Winchester, il fucile. No, ti ricordi l'orologio che era il culto degli anni 80, l'orologio Winchester? No, l'orologio non me ne poteva fregare di meno. Ah, io sì, ho sempre amati. No. Però poi quello alla fine era una tamarrata, però vabbè, all'epoca. La tamarra era proprio da Paninaro. Poi c'ha scritto l'11 gennaio. Cioè, questa cosa è veramente sconcertante. Proprio non abbiamo mai cagato. Mi dispiace. Guarda. Comunque dice che siamo, la trasmissione è geniale, divertente. Aspetta, però vuole dire che fino a quel momento lo eravamo. Poi dopo si pure che abbiamo fatto talmente schifo che non ci ascolta più. Sì, perché poi c'è stato un discutibilmente un calo etico, politico, socio-economico. Ci sono state elezioni in Apple. Però ci piace ripeterlo. C'è un programma geniale, appunto, divertente, scoppiettante, antigovernativo, quella è la cosa importante. Ribonucleico. Contundente, irriverente, culturale, culturale, avanguardista e ribonucleico. Grazie, veramente. Grazie. Quindi ci vediamo lunedì e per OGM ci vediamo. La data ufficiale è quando cazzo ci pare a noi ce li pigliate, tanto mica ci pagate, perché da adesso in poi mercoledì sera abbiamo detto, c'è proprio scritto, c'è un contratto che abbiamo fatto con contratto di governo con Walter Smano, dove c'è sta scritto il mercoledì sera stronzi andiamo a prendere una birra, perché sennò c'è qualcosa che non funziona dentro di noi. Quindi salutiamo tutti, tanto Rizzard continua a scrivere cose a Don Boy, scrivetevi in privato, cioè non è una chat la volta. E io ho momentaneamente spento il fatto apposta, però dopo insomma. No, ci parlava di cannoli, quindi potrebbe essere interessante la faccenda. Dice Pizzi domanda, Casciola risponde ed io correggo, giusto. Beh sì, potrà succedere sta cosa, visto che insomma tu ci vivi da oramai una decade. Quanto ti sei. Hai figliato poi? Hai creato giapponesi? Quindi vabbè, ciao Corrado, buonanotte. Ma scusa, non ho capito, Corrado, no? Lavora, ha detto che vive in Versilia. Vive in Versilia la famiglia, lui vive in Giappone da oramai non so quanti anni. Che figata. Si è anche sposato. Che figata. Ma che lo fa fare? Esatto. Sposato e fa la guida. Corrado turistica. Si chiama, perché sennò sembrerebbe Tommaso in Giappone, che è uno youtuber. Amici, che si conoscono. Io seguo Tommaso in Giappone. Sì, io lo seguivo un po', poi. Non è che è molto prolifico nei video, però insomma. Sta più simpatica la moglie di lui, insomma. Però lei è un taglio. Comunque, vabbè, Tommaso. Corrado, lo conosci Tommaso? No? Ho visto anche in un video perché anche è toscano, per cui ho associato alla cosa. Ma perché in realtà tutti questi ragazzi che fanno queste guide turistiche lì in Giappone, si conoscono tutti, fanno un po' parte tutti di una sorta di mafia, diciamo mafia. Non diciamo Yakuza, però, perché non hanno i tatuaggi. Scherzo, Corrado, dai, assolutamente. Non voglio offendere nessuno. Baci, alla prossima puntata. Ciao.